Buongiorno e benvenuti a Luogo Comune, la trasmissione radiofonica che analizza luoghi comuni, motti, aneddoti e modi di dire, per poterli confermare o smentire con l'aiuto di un ospite. In studio a tenervi compagnia per la prossima mezz'ora circa Valentino De Luca. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta, e o su Twitter, se vi piace cinguettare, con chiocciola Luogo C, questo è il nostro contatto, oppure se siete più grafomani, diciamo una bella mail classica, insomma, luogocomune.radio@gmail.com. Il luogo comune che tratteremo oggi è Casa Dolce Casa, con una ventennale mancanza di edilizia pubblica e migliaia di persone sotto sfratto esecutivo per morosità legata alla crisi economica, che aspettano con terrore l'intervento della forza pubblica per lo sgombro degli appartamenti oppure degli spazi comuni occupati. A Roma e nel Lazio diversi movimenti di lotta per il diritto alla casa si sono organizzati, promuovendo l'occupazione di stabili invenduti o spazi inutilizzati ed abbandonati, con gesti dimostrativi che, oltre a un significato pratico, no? Cioè sistemare le persone che altrimenti non saprebbero dove andare a dormire, detto in poche parole, però hanno anche una forte valenza diciamo simbolica, sono anche un grande messaggio che solleva, insomma, un problema. Hanno lo scopo di creare scalpore per mettere sotto riflettore, appunto, la questione dell'emergenza abitativa. Ma come fare quindi per risolvere il problema? Quali sono le soluzioni e la risposta da parte della politica, ma anche e soprattutto ci interessa della società civile? E ne parliamo di questi argomenti di non poca importanza, ecco, soprattutto di grande attualità, con Marco, che è un attivista dei blocchi precari metropolitani di Roma e della rete Abitare nella Crisi. Ciao Marco. Ciao, buongiorno. Senti Marco, ci puoi fare una fotografia dell'emergenza abitativa a Roma? Stiamo messi davvero così male? Se però la risposta è sì da parte tua, io allora ti chiedo, ma noi non eravamo la nazione, come ho sempre sentito ripetere negli ultimi 20 anni, a meno che non sia anche questo un luogo comune, la nazione, dicevo, in cui il 70% degli abitanti è proprietario della propria casa? Beh, innanzitutto la risposta alla prima domanda è sicuramente sì, cioè la situazione abitativa a Roma è una situazione molto, molto complessa, molto complicata, e che vede decine di migliaia di famiglie, quindi parliamo di molte decine di migliaia di persone che si trovano senza un alloggio. Rispetto all'affermazione che facevi che il 70% degli italiani è proprietario di casa, bisogna vedere questa proprietà innanzitutto sostanzialmente in questo momento di chi è, perché è vero che gli italiani hanno comprato per anni alloggi, ma avvalendosi di mutui che in questo momento ci sono una stragrande maggioranza di famiglie che ha acceso questo mutuo, che si trova in forti difficoltà. Pochi riescono a ritrattare, di convertire appunto questo mutuo, altri invece si trovano addirittura a dover lasciare la proprietà dell'alloggio per farla ritornare nelle mani delle banche. Se noi appunto prendiamo come spunto la graduatoria per le case popolari, ci sono 40.000 domande di casa popolare in attese, e comunque questo dato non tiene in considerazione tutti i singoli e le singole che appunto non possono accedere al bando dell'alloggio popolare, soprattutto non si tiene conto della composizione migrante, che è una composizione che si trova in forte emergenza abitativa, ma che per vari motivi non può accedere alle liste del bando di Casa Popolare. Senti Marco, ma quali sono i motivi che fanno perdere casa? Cioè, perché a un certo punto non si paga più un affitto come inquilini? Che tipo di storie e di problemi hai incontrato in questi anni? Ma guarda, in questi anni, negli ultimi nello specifico, sicuramente c'è la crisi che incombe, quindi migliaia di persone che perdono il lavoro, migliaia di persone che non lo trovano e non lo riescono a trovare, quindi sicuramente un impoverimento e una precarizzazione poi delle vite poi delle persone che si fa arrivare al punto di non riescono più a pagare un affitto, che non riescono più a pagare la rata del mutuo. Quindi sicuramente la crisi è la causa principe. Non ci sono degli ammortizzatori, cioè comunque delle soluzioni da parte delle istituzioni che permettono a questi sfrattati, a queste sfrattate, di avere una soluzione di continuità rispetto alla propria sistemazione abitativa, insomma. Senti, ma è vero che, al contrario di ciò che si potrebbe pensare, è un problema che coinvolge, diciamo, molti italiani, non solo stranieri? Perché quando si parla di emergenza abitativa e di casa e di occupazioni, sono tutti temi che, insomma, mano a mano snoccioleremo per bene, però la prima cosa che viene in mente nelle chiacchiere da bar è che, cioè, gli stranieri è un problema che riguarda appunto gli stranieri che si trovano in difficoltà, non hanno la casa, quindi in un certo senso si ghettizza il problema, o lo si accolla solamente a un certo tipo di popolazione, che, come ricordavi tu giustamente, è la popolazione migrante. Ma invece poi, quando, per esempio, anche recentemente gli occhi delle telecamere, oppure i giornalisti per gli tsunami degli anni passati, poi parleremo meglio di che cosa sono, si sono appunto fermati su questa realtà, abbiamo visto che invece tantissime famiglie italiane sono diciamo coinvolte, ecco. Quindi insomma non credo sia un problema, ecco, solo rivolto solamente ai migranti, ma no, penso assolutamente, anzi è un problema che sta spingendo molto anche sulla popolazione italiana. Ma io per primo ho 32 anni e sono italiano, appunto, e vivo dentro un'occupazione perché in questo momento per metterci un affitto è una cosa improponibile, una cosa insostenibile. Quindi sicuramente c'è un forte dato italiano, un grosso numero di italiani, famiglie, singoli, che si trovano in emergenza abitativa. La situazione dei migranti spicca più all'occhio, perché sicuramente i migranti hanno, diciamo, anche più voglia poi di mettersi in gioco, e soprattutto hanno meno possibilità di rimediare, diciamo, appoggi o situazioni, soluzioni, diciamo, di appoggio, insomma, precarie, mentre i migranti per ovvie ragioni, no, si trovano comunque si trovano in maggior numero proprio senza possibilità alcuna, se non appunto quella di trovare soluzioni alternative. Dopodiché, se noi pensiamo invece al dato degli sfratti, che in Italia è un dato altissimo, ci sono 150.000 sfratti l'anno, in Italia questi sfratti sono per l'80% di famiglie italiane che vengono sfrattate di casa senza nessun tipo di soluzione alternativa. Cioè, questi dal giorno alla notte gli arriva una lettera con ricevuta di ritorno che dice: ve ne dovete andare, e questo, da quel momento in poi devono trovare un sistema per sistemare la moglie o il marito, i figli, eccetera. Esatto. E diciamo che il bando dell'emergenza abitativa, il bando delle case popolari, come punteggio di graduatoria vede lo sfratto, diciamo, il fatto di subire uno sfratto esecutivo, l'assegnazione di un punteggio, del massimo del punteggio. Dopodiché questo nella teoria, appunto, dovrebbe portare a una soluzione di continuità abitativa, ma poi nella pratica non è così, perché poi gli alloggi popolari non ci sono, e quindi gli sfratti trattati poi rimangono senza soluzioni, o comunque le soluzioni che poi si trovano appunto le devono trovare loro con i propri mezzi. E come insomma si può ben immaginare, se sono stato sfrattato per morosità, quindi perché non ho potuto pagare l'affitto, trovare una soluzione alternativa non è semplice. Quindi sicuramente il dato italiano non solo sta emergendo sempre di più, ma è sicuramente un dato che sta aumentando proprio di volume in maniera esponenziale. Marco, senti, facciamo proprio l'esempio pratico, appunto. Dici giustamente non è di facile soluzione. Mi è arrivata la lettera di sfratto, ho cercato di rimandare il più possibile, però non so adesso come avviene praticamente. Penso che insomma in un modo o nell'altro mi prendono e mi mandano fuori casa. Quindi io e la mia famiglia ci troviamo proprio fisicamente fuori casa. Da quel momento che succede? A chi mi posso rivolgere? Quali alternative ho? Quali soluzioni ho per fisicamente, allora, per non dormire fuori, per non dormire insomma sotto le stelle, ecco? Beh, le vie istituzionali non sono molte, nel senso che il comune, i municipi o comunque appunto tutti gli organi di governo, anche territoriali, nel momento in cui gli si fa una richiesta formale, la risposta in questo momento è: non abbiamo soluzione, non abbiamo fondi economici da investire per la soluzione di questo problema. Quindi io oggi vengo sfrattato e l'unica soluzione che posso trovare è una soluzione che viene da me o comunque da persone che sono nella mia rete, o comunque appunto entrare dentro un percorso di lotta nei movimenti per il diritto all'abitare e appunto con la lotta provare a strappare spazi di agibilità, spazi dove poter appunto riprendersi pezzi di vita, riprendersi pezzi di un pezzo proprio della vita, anche perché parliamoci chiaramente, la casa è sicuramente tra i bisogni primari, quasi bisogno principe, perché non avere una casa, non avere un tetto sotto il quale stare, insomma crea anche una sorta di disperazione poi nelle persone. Questo poi lo vediamo anche proprio praticamente, insomma. Senti, ma come nasce quindi l'esigenza di un movimento di lotta per la casa? Come ci si organizza? Come ci si coordina? La storia dei movimenti di lotta per la casa a Roma è una storia lunga, insomma, che parte dagli anni 70. È una storia che appunto ha visto nell'occupazione una pratica di riappropriazione di diritti, ma appunto di pezzi di vita, che poi ha dato i suoi frutti, sia appunto, come dicevi tu nell'introduzione, nell'immediata risoluzione di un problema, sia poi nel cercare di strappare con forme di lotta più o meno radicali diciamo percorsi che ci permettano di trovare una soluzione rispetto all'emergenza abitativa. Quindi appunto una storia che parte dagli anni 70, una storia che ha visto un forte attivismo a Roma sicuramente e che appunto vede tutt'oggi migliaia di persone che si trovano nella condizione di non avere un tetto sopra la testa, di non avere un alloggio e appunto trovano nei percorsi di lotta anche non solo una soluzione pratica, ma anche una riappropriazione della propria dignità e della propria vita. Marco, ma la famiglia di cui sopra, insomma, di cui all'esempio sopra l'abbiamo lasciata, che a seguito di uno sfratto esecutivo non ha dove andare, le istituzioni gli rispondono picche, e da quello che ho capito appunto insomma hanno sentito parlare dei movimenti di lotta per la casa e quindi diciamo che si rivolgono per chiedere una mano, per entrare entrare in questa grande rete organizzativa, e proprio i movimenti di lotta per la casa, insomma, hanno svegliato Roma nel, correggimi se sbaglio con le date, mi pare nel dicembre del 2012, nell'aprile del 2013, insomma, l'hanno svegliata questa città con una serie di iniziative eclatanti, passate alle cronache col nome di Tsunami, che con l'omonimo tour grillino che era in parallelo in quel, proprio in quei mesi, non aveva proprio niente a che vedere, e vennero occupati appartamenti o siti, diciamo sfitti, insomma, o in disuso, potremmo dire, a Ponte di Nona, Tiburtina, Torre Vecchia, eccetera eccetera, Prenestina, sì, a Prenestina, diciamo, qual è stata la reazione da parte dell'amministrazione capitolina, ad esempio? Diciamo, la reazione da parte dell'amministrazione capitolina è stata sicuramente quella di provare a trovare diciamo un momento di dialogo, ma che poi nella fattezza poi delle cose, nella concretezza delle cose, non ha trovato grandi risultati, mentre un risultato importante che hanno avuto questi tsunami tour è stato sicuramente con la regione, dove siamo riusciti a stappare una delibera dove vengono stanziati più di 250 milioni di euro per l'emergenza abitativa, che non solo viene riconosciuta, ma questo è un passaggio che ha fatto anche il comune, non solo vengono riconosciuti come emergenza abitativa tutti i posti che sono stati occupati, non solo durante gli tsunami tour, ma tutte le situazioni di occupazione dei movimenti per il diritto all'abitare romani, e non solo, ma appunto un investimento economico per provare a trovare una soluzione. Questa delibera è stata scritta, pensata e costruita dentro un percorso condiviso tra i movimenti per il diritto all'abitare e nella regione Lazio, nella fattispecie dell'assessore alla casa della regione Lazio Refrigerio. Questa è una delibera che sono pochi giorni che è uscita, e questo appunto, insomma, è diciamo un punto importante, ecco, mi pare di capire, un punto importante che hanno segnato sicuramente i movimenti per il diritto all'abitare. Senti Marco, come al solito, arrivati a questo momento della trasmissione, è bene fare una piccola pausa musicale. Di solito scelgo sempre una canzone che in maniera scherzosa è legata all'argomento, siccome l'argomento è casa, dolce casa, ho scelto una canzone storica, insomma, degli Assalti Frontali, con un titolo molto significativo che, insomma, mi piace molto, poi ne parleremo se sei d'accordo o meno. Si chiama Devo avere una casa per andare in giro. Ci sentiamo tra un paio di minuti. Solidarietà senza rivolta. E ritorniamo in studio dopo la pausa musicale, sempre Valentino De Luca dai microfoni di Radio Città Aperta per Luogo Comune. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta, e su Twitter, se vi piace cinguettare, chiocciola Luogo C, oppure scriveteci una mail con pareri, suggerimenti o prossimi luoghi comuni o motti, proverbi, modi di dire che insomma volete sentir trattati qui in radio. Insomma, scrivetemi luogocomune.radio@gmail.com. Il tema di oggi è casa, dolce casa, e ne parlavamo appunto con Marco, attivista dei blocchi precari metropolitani di Roma e della rete Abitare nella crisi. Marco, senti, ma diciamo per altre, insomma, per alimentare un pochino queste chiacchiere da bar che si sentono, mettiamoci un pochino, almeno io mi voglio mettere un pochino nella parte delle persone che criticano appunto quello che voi fate, dicendo ma questi però occupano le case, uno risparmia tutta la vita per comprarsi casa, poi me la occupano, ma io non sono un grande costruttore, non sono un potente, alla fine sono un impiegato, cioè ho dei risparmi da parte, mi vedo la casa occupata così, ma in realtà c'è una risposta a chi dice questo, insomma? Beh, sì, sicuramente una risposta c'è, nel senso che le case, gli stabili che poi vengono occupati sono tutti stabili di cui appunto le proprietà non solo sono proprietà private di grandi proprietari o comunque di persone che lasciano sfitte o comunque vuote le case per anni, o gli stabili per anni, c'è anche poi la proprietà, ci sono anche stabili di proprietà pubblica che vengono occupati, quindi io a queste persone direi che di dormire sonni tranquilli, perché se una casa viene comprata per necessità vuol dire che non rimarrà vuota, non rimarrà sfitta e soprattutto non rimarrà vuota per una speculazione immobiliare, perché poi di questo parliamo. Roma è devastata da speculazioni immobiliari, devastata da tonnellate di metri cubi di cemento che sono stati riversati dai grandi poteri del mattone, dai grandi signori, scusa, del mattone. Quindi appunto non è il piccolo proprietario, insomma noi non vogliamo togliere niente a nessuno, ma quello che vogliamo prenderci e strapparci appunto è una dignità di vivere, è la nostra vita, perché poi appunto come dicevo prima la casa è un pezzo di vita, è un pezzo di vita importante che se non ci viene dato bisogna riprenderselo in qualche modo. Senti Marco, ma tu hai parlato di speculazione appunto edilizia da parte dei signori del mattone, penso che tu ti riferisca ai numerosi palazzi che magari si vedono in giro camminando per il raccordo, oppure in alcune zone di Roma che sono praticamente vuoti, però il palazzo è stato costruito, magari puoi spiegare, se lo sai, ai nostri radioascoltatori che non sono addentro alla questione, come mai diciamo ci sono queste pratiche, ovvero costruire un palazzo, costruire un edificio insomma, quindi finirlo e tutto quanto, però poi lasciarlo vuoto, perché così per logica sarebbe uno spreco di denaro, in realtà non è così, non è che il costruttore non sapeva che fare dei soldi assolutamente queste sono appunto speculazioni di cui appunto negli Stati Uniti ci sono state e ne abbiamo visto i devastanti effetti di queste bolle speculative, appunto case, palazzi, interi quartieri che vengono costruiti dall'oggi al domani nel nulla e vengono lasciati così in attesa che intorno vengano costruite tutta una serie di servizi o tutta una serie di come posso dire situazioni, posti che poi rendano appetibile quegli alloggi, e soprattutto il fatto che vengano costruiti poi sempre più in zone sempre più periferiche, questa è anche poi una logica, no? Allucinante, in cui si fanno schizzare alle stelle affitti e proprietà di palazzi al centro, spingendo la gente a spostarsi sempre più in periferia per trovare delle soluzioni meno care, e poi appunto una volta che i quartieri vengono in un modo o nell'altro popolati, far schizzare alle stelle nuovamente gli affitti o comunque proprio le proprietà delle case. Ma senti Marco, ma per secondo te con una seria politica di edilizia popolare il problema si potrebbe risolvere, o almeno in gran parte risolvere? Ma io penso proprio di sì. Innanzitutto, e perché non è stata fatta negli ultimi, perché sono 30 anni che si costruiscono case? Perché il problema non è costruirle, il problema sarebbe le istituzioni dovrebbero prendere a prezzi calmierati tutto l'invenduto che c'è, ed è quello che noi stiamo chiedendo come movimenti per il diritto all'abitare, proprio di bassa cementificazione, bassa devastazione dei territori, ma appunto l'acquisto da parte delle istituzioni, dalla regione, dal comune, insomma dagli organi competenti, dall'acquisto dell'invenduto a prezzi calmierati. E questo non solo risolverebbe il problema dell'emergenza abitativa, ma diciamo che funzionerebbe anche da calmierante rispetto ai prezzi e al mercato del mattone, che in questo momento è un mercato che non ha vincoli di nessuna natura se non quelli imposti da appunto i famosi signori del mattone. Quindi sicuramente l'acquisto in qualche modo forzato o la requisizione degli alloggi già costruiti e invenduti da parte delle istituzioni per poi reinserirle come alloggi ERP, diciamo, questo sicuramente risolverebbe più di un problema, e questa è una delle proposte che ne facciamo, insomma. E quindi sì, io sono dell'idea che un radicale cambiamento delle politiche abitative di questo paese possa realmente risolvere questo problema. Senti Marco, ma in questi ultimi anni diversi spazi a Roma, magari in abbandono da anni, sono stati, diciamo, sottratti alla rovina o alla trasformazione in sala bingo, in sala slot machine, per diventare diciamo uno spazio comune in cui organizzare eventi culturali, servizi rivolti alla cittadinanza. Per esempio mi viene in mente il cinema America a Trastevere, il cinema Nuovo Palazzo a San Lorenzo, l'Alexis a Ostiense, eccetera eccetera. Ma come mai, diciamo, i collettivi di cittadini, tu che ci vivi dentro, insomma tu che sei proprio dentro queste realtà, come mai i collettivi di cittadini, studenti, lavoratori stanno sempre di più auto-organizzandosi per restituire luoghi dimenticati alla cittadinanza, cioè farli diventare, proprio un caso insomma col nome della trasmissione, un luogo comune? E in tutto questo soprattutto dov'è la politica? Anzi, forse queste cose nascono da una assenza della politica? Beh, questo sicuramente, questo diciamo che nella domanda c'è già la risposta. Sicuramente l'assenza della politica favorisce l'auto-organizzazione, e dopodiché e quello che poi dobbiamo tenere a mente è che i territori in un modo o nell'altro hanno una memoria, quindi palazzi che per anni, per decenni sono stati palazzi riconosciuti e utilizzati come luoghi di socialità, il fatto che vengano trasformati in posti in cui la socialità viene annientata, in cui l'unica motivazione per cui si va lì è una motivazione di economica, no? Quindi i territori ne ricercano di questo cambiamento, e appunto il Cinema Palazzo è uno tra i tanti, come appunto gli altri che citavi, posti in cui il territorio, il quartiere ha vissuto la socialità, ha vissuto la possibilità di poter andarsi a vedere uno spettacolo piuttosto che andarsi a vedere un film al cinema, vederli trasformati in bingo, tra l'altro totalmente privati e totalmente al di fuori appunto di logiche sociali, e l'assenza è appunto mescolata all'assenza della politica, sicuramente è un mix che favorisce l'attecchire dell'organizzazione. Tu Marco sei giovane, forse non ricordi un grande spot degli anni 80 delle reti Fininvest che diceva: torna a casa in tutta fretta, c'è un biscione che ti aspetta. E questo dici, ma perché stai citando questa cosa? Perché questa, ma ne faremo poi una puntata a parte, bisognerebbe veramente si apre un mondo e non abbiamo tempo, ma è stato indice di una mentalità negli ultimi due decenni che abbiamo vissuto, insomma, di tornare a casa, cioè nello spazio privato, perché c'era il biscione, nel senso c'è una televisione che ti aspetta, quindi non fermarti nello spazio pubblico, ma chiuditi nella tua casa, la casa che giustamente per te e per altre migliaia di persone, insomma, è un punto di arrivo, una grande conquista sociale ed è sacrosanto, però per anni è stato spinto invece come luogo per non per interagire con quello che stava fuori dalla porta di casa, ma per respingere, per disinteressarsi, diciamo. E poi gli effetti si sono visti anche nell'argomento che stiamo trattando, quindi zero edilizia popolare, zero spazio sociale, zero luogo comune per i privati, ma nel privato tu lo sai come funziona, cioè chi c'ha i soldi sta bene, no, e chi non ce l'ha. Senti, un'ultima domanda al volo che ti voglio fare, che mi incuriosisce, è questo: ma chi sta vicino all'occupazione, cioè chi fisicamente abita in maniera proprio contigua, il vicino di casa, il vicino di palazzo, la gente del quartiere, di solito come reagisce, che reazioni ha? Ma guarda, diciamo che ci sono due reazioni che sono temporali, nel senso che all'inizio c'è una sorta di diffidenza, dopodiché poi il lavoro che compiono anche poi gli occupanti, sia in quanto occupanti sia in quanto poi abitanti di quel luogo, di quel territorio, è quello di poi aprirsi al territorio e non solo appunto creare entrare nel tessuto sociale, entrare nelle dinamiche sociali del territorio, ma poi aprire i propri spazi e quindi anche offrire poi alcuni luoghi dentro le occupazioni al quartiere, che vengono poi restituite al quartiere, insomma, come ludoteche, sale da tè, spazi aggregativi, insomma. Quindi sicuramente in un primo momento c'è una sorta di diffidenza che poi appunto con il lavoro e con il vivere nei posti, insomma, le persone, i vicini si rendono conto poi che sono persone come loro, non sono alieni, non sono mostri, ma sono semplicemente persone che hanno bisogno di casa e che in un modo o nell'altro si sono riappropriati di un proprio diritto. E quindi sicuramente hanno più, diciamo, empatia con le persone, insomma, che arrivano ad occupare, insomma, entrano più in contatto con certe tematiche, ecco, dal buon esempio, esatto, degli occupanti mi verrebbe da dire, esatto, insomma. Marco, esatto, senti, esatto, il tempo è tiranno, altro luogo comune, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata e ti saluto. Grazie anche a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ciao Marco. Un saluto, ciao, buona giornata. E ringraziamo quindi Marco, dell'attivista dei blocchi precari metropolitani, ricordiamo, e per essere di Roma e per essere stato nostro ospite. Siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Luogo Comune. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori a visitare il sito www.radiocittàaperta.it per essere sempre aggiornati su tutte le iniziative della radio. Ce n'è una in particolare che si chiama Non esistono più le mezze stazioni, che è una campagna di raccolta fondi a favore di questa bella realtà romana. Facebook, usate Facebook? Se lo usate dovete digitare Luogo Comune e ci sta il logo della radio 88.9, così mi trovate e mi aggiungete. Twitter, vi piace cinguettare? @luogoc, siete grafomani e andate giù di mail luogocomune.radio@gmail.com. Da Luogo Comune è tutto, l'appuntamento è per domenica prossima alle ore 10.40 circa, sempre sugli 88.9 di Radio Città Aperta. Da Valentino De Luca, una buona domenica. Ciao!